Sono partito da Freud, da una stanza di fumo, dove la libido era un fuoco solo di carne tabù. Poi ho trovato un sentiero che portava più a fondo. Jung che mi dice guarda l'energia e l'anima, non solo il corpo che hai tu. Visioni, sogni, deliri, icone dentro i musei, gli stessi volti nei miti, nelle chiese, nei replay. Un inconscio che non è solo mio, ma che ci tiene legati. Un mare antico collettivo, dove siamo già raccontati. E nell'ombra che rimuovo c'è già scritto il mio domani. Una guida mercuriale mi trascina per le mani. Fra persona e maschera, fra ciò che sono e ciò che mostro. In ogni volto che io specchio riconosco il mio rimorso. Siamo mandala di sincronicità, un punto al centro perso nell'infinità. Non siamo risposte ma domande in cerca di un Dio. Archetipi che bussano dentro al petto mio. Siamo mandala nel tempo che va, un cerchio immenso, quattro vie di verità. Pensiero, sentimento, intuizione, poi sensazione. La quadratura del cerchio è la nostra canzone. Ho incontrato la mia ombra dietro il muro dell'infanzia. Mi sussurra ciò che nego, ciò che temo, ciò che non so. Se la spingo troppo in basso si vendica con la sostanza. Con nevrosi o con follia che mi strappa via dall'io. Poi l'anima mi parla con la voce di chi amo. Animus nei sogni di chi porta un altro corpo addosso. Se la confondo con l'ombra, ogni volto è un inganno. Proietto il mio bisogno e non ti vedo per davvero, ti conosco a rovescio. Il vecchio saggio è un albero che cresce nel silenzio. La grande madre è una foresta in cui ritorno bambino. E nel mezzo c'è un androgino che danza corpo doppio. Mi ricorda che la scissione è solo un trucco del destino. E nel centro del mandala brucia un sé che non è mio. Il mago dei, una sfera di luce, oro liquido e addio. Se lo scambio per il mio ego, nasce il culto del tiranno. Un io inchiodato in croce che non abbraccia mai nessuno, vuole solo l'universo in mano. Siamo mandala di sincronicità, un punto al centro perso nell'infinità. Non siamo risposte ma domande in cerca di un Dio. Archetipi che bussano dentro al petto mio. Siamo mandala nel tempo che va, un cerchio immenso, quattro vie di verità. Pensiero, sentimento, intuizione, poi sensazione. La quadratura del cerchio è la nostra canzone. Forse è solo la cultura che ci passa i suoi emblemi, o è la firma sul DNA dei rametili sui nostri temi. Forse evoluzione convergente di problemi senza età, le stesse paure dell'uomo che ritornano qua e là. O forse oltre lo spazio-tempo c'è una trama senza fili, sincronicità che unisce i sogni ai laboratori umili. Jung che parla con Pauli, fotoni in entanglement, preghiere in corsia che cambiano un decorso clinico per un 10%. E vedo un panopticon che brilla come un mandala, una torre di luce al centro che ti osserva e non ti parla. E se ho potere disciplinare, è madre o prigione ideale. Se l'archetipo si sporca, anche il simbolo diventa infernale. E le macchine che alleno coi nostri miti e le canzoni generano mandala, eroi, sacrifici e tentazioni. Come se dentro i loro pixel respirasse il nostro mare. Un inconscio di immagini che non smette di sognare. siamo mandala di sincronicità, non solo neuroni, non solo elettricità. Forse siamo domande che il mondo fa a se stesso, lo stesso archetipo che torna in ogni gesto. Siamo mandala nel tempo che va, un cerchio immenso, fragile identità. In ogni analisi, in ogni scuola, in ogni teoria, la stessa antica ferita che cerca la sua via. Dal lettino di Vienna alla cella del Panopticon, dalla grotta dei simboli ai pixel di una new generation, fra i Dager, la canele, scuole, zibetti. Io cammino su un filo tra il cosmo e la TCC. E se un giorno capirò da dove nasce questo canto, forse il se sorriderà dietro l'imago e il suo incanto. Ma finché resto qui a cercare il senso in ogni traccia, Jung mi sussurra piano l'individuazione. Non finisce, ti abbraccia.